Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Italo Spinelli, direttore della 21esima edizione di Asiatica Film Festival, incontri con il cinema asiatico, online dal 18 al 22 dicembre 2020. Italo, ben trovato. Salve, ciao. Per chi non conoscesse il festival, di cosa si tratta? È un festival che esiste ormai, appunto, come dice l'edizione, da 21 anni a Roma. La novità quest'anno che si svolge online come altri festival su MyMovies, ed è un festival che si è dedicato alle cinematografie asiatiche, in particolare in passato anche al Maghreb, considerato tra i festival di qualità più prestigiosi, questo anche in Asia, così ha un pubblico affezionato che lo segue e che cerchiamo di creare, diciamo così, un ponte tra le realtà non solo cinematografiche, tra l'Asia e l'Europa. Quante opere prevede questa edizione? 20. Che sono suddivise in 10 film in competizione, 8 cortometraggi, una sezione particolare dedicata al sud-est asiatico e un film che sarà poi l'apertura, Mekong 2030, che è un'antologia cinematografica composta da 5 storie, che un po' immagina il futuro del Mekong da diverse prospettive nazionali e culturali. Film che provengono, sono corti che provengono dalla Cambogia, dal Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam, che sono paesi che raramente abbiamo visto un qualcosa di cinematografico, parlo soprattutto del Laos e del Myanmar. E poi l'apertura è dedicata a un film cinese, The Cloud in a Room, vincitore al Rotterdam Film Festival quest'anno, e che è un film molto particolare. C'è un taglio, diciamo, molto quest'anno al femminile, su tematiche femminili, e in qualche modo un racconto un po' sulla identità e su quello che sta succedendo un po', appunto, nell'Asia. Ci saranno forme di interazione con autori e autrici? Sì, ci saranno con alcuni autori, ci saranno interventi, diciamo, probabilmente in Zoom o Skype che stiamo organizzando. Non è facile per via del fuso orario, stiamo cercando di organizzarlo al meglio, comunque degli interventi ci saranno. Naturalmente poi ci sarà l'intervento finale delle due giurie, una è quella, quest'anno una scelta particolare, che è formata tutta da direttori di festival della rete dei festival di Roma, dei festival storici sostanzialmente, e una giuria internazionale, NEPAC, cioè Network for Promotion of Asian Cinema Internazionale, formata da una giuria proveniente dalla Mongolia, Stati Uniti e Iran. 18 i paesi presenti, e ci saranno dei momenti, diciamo così, di interazione tra gli autori, frammenti di presentazione dei film. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? www.mymovies.it. Il programma è già online, basta appunto cliccare su My Movie, poi in alto c'è questo bottone che dice Festival Online, c'è Asiatica e lì c'è tutto il programma, che è un programma quest'anno appunto molto ricco, sia nei corti, che poi sono alcuni anche mediometraggi, ma ci sono paesi poco frequentati come il Kazakistan, l'Uzbekistan, molto l'Indonesia, e abbiamo poi una parte dei corti che sono invece dal Maghreb e sono appunto dall'Egitto, dal Libano, storie a partire dalla rivolta libanese più recente, dall'Egitto I'm Afraid to Forget Your Face, che ha vinto a Cannes quest'anno la Palma d'Oro per i corti. È un programma concentrato in 20 film, questa è stata la scelta per dare veramente il meglio al nostro pubblico. Tutti i film sono fruibili abbonandosi con 9,95 euro per 72 ore tutti i film, a partire dal primo giorno. Credo che sia un'edizione abbastanza imperdibile. 21esima edizione Asiatica Film Festival, incontri con il cinema asiatico. Sul web dal 18 al 22 dicembre 2020, un saluto e un ringraziamento al direttore Italo Spinelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, alla prossima! Crepi, alla prossima, grazie, vi aspettiamo! Con Marino Midena, direttore artistico del Green Movie Film Fest, per presentare la settima edizione online dal 18 al 20 dicembre 2020. Ben trovato. Grazie anche a voi e ai tuoi ascoltatori e lettori. Raccontiamo cos'è il Green Movie. È il tentativo di raccontare il paese sotto un'ottica ambientale, per descrivere i nostri comportamenti nel bene e nel male, per raccontare le crisi che noi creiamo in quest'epoca dell'antropocene, ed è anche un tentativo di dare un contributo per migliorare la situazione. Quest'anno è un'edizione particolare, come dicevi tu, online, proprio perché non è stato possibile realizzare un incontro in presenza. Questa cosa ci dispiace molto, perché noi siamo molto favorevoli al cinema fatto in sala e visto in sala, anche perché al di là della magia e della cerimonia che può rappresentare questo incontro, a noi interessa moltissimo e ci piace l'incontro con il pubblico, anche perché il pubblico che segue il cinema ambientale è un pubblico attivo che vuole partecipare, e quindi c'è uno scambio forte, e io spero che presto si possa tornare in sala per vedere tante bei film, anche perché poi il cinema ambientale italiano, a me piace parlare di una new green generation di filmmaker, sta crescendo tantissimo, come chi avrà voglia di vedere collegandosi su OpenDTB, distribuzioni dal basso, dove noi appunto proponiamo la nostra rassegna dal 18 al 20, una rassegna completamente gratuita, on demand, senza vincoli d'orario, per cui uno si collega dalla mattina alla sera e può appunto visionare tantissimi film. Quanti sono i titoli? Abbiamo fatto una scrematura nel tempo, nel senso che abbiamo ricevuto circa 1500 proposte, e poi mano a mano che i DPCM si susseguivano abbiamo optato per una proposta tutta italiana, perché avevamo speranze di poter realizzare qualcosa in presenza e quindi non volevamo creare problemi con gli spostamenti, quindi abbiamo una proposta tutta italiana con una particolare attenzione alle opere dei giovanissimi, quindi c'è una folta rappresentanza di under 30 tra i filmmaker e anche all'interno delle tematiche, perché per esempio uno dei documentari che presentiamo è Ragazzi Responsabili, che è proprio la storia della nascita del movimento dei Fridays for Future in Italia. Ma in maniera giovane parlano anche molti cortometraggi, come per esempio Artwood, che è un documentario a cui tengo particolarmente perché è un bel modello di resilienza di una popolazione in America Latina, per cui lo consiglio. E poi anche la collaborazione con la LUC, vorrei segnalare la Libera Università del Cinema, che presenta due cortometraggi, L'Ottavo Colle e Racing Club, ma anche Manca Poco Tempo è di un giovanissimo, e di Non Voglio Più Essere Un Umano di Martina Selva è giovanissima. Quindi diciamo, forte attenzione al cinema italiano come appunto segnale di questa New Green Generation, che non è soltanto la risposta a un'istanza artistica dei filmmaker, ma è anche il risultato di un grande cambiamento, secondo me, e che è quello che vede nell'ecologia non più un tema da trattare, cioè un aspetto marginale, ma diventa il paradigma attraverso cui leggere tutta la società, secondo me. E quindi io sono convinto che il cinema del domani sarà sempre più green, parlerà sempre più di ambiente, avrà un'ottica sempre più attenta e sarà poi da un punto di vista produttivo anche realizzato in maniera sostenibile, quindi con un'attenzione sul set a creare il minor impatto possibile. In questo senso noi, in maniera collaterale al festival, abbiamo dato un premio al Green Movie Award da un documentario che si chiama Controcorrente, realizzato da due ragazzi di 25 anni che non solo hanno fatto una bellissima inchiesta sullo stato della risorsa idrica in Italia, ma poi hanno realizzato un vero e proprio bosco per compensare e quindi per realizzare una pellicola a impatto zero, onde appunto non pesare assolutamente nella realizzazione del film sull'impatto ambientale. Come saranno articolate queste tre giornate? Il fatto di poter essere on demand ha solo questo piccolo vantaggio, che appunto, essendo libero on demand, ognuno si può collegare quando ha un minuto libero, quindi non c'è una programmazione, non c'è un orario, chiunque si può collegare e scegliere tra la proposta che noi abbiamo fatto e quindi fare poi anche zapping, cioè muoversi dopo aver visto un documentario e spostarsi su un altro, senza nessun vincolo d'orario, anche a notte fonda, gratis e senza password e senza vincoli, e di facile accesso. Ci saranno momenti di interazione anche con autori e autrici? Stiamo per disponendo delle dirette Facebook con i registi, ci sono i saluti di accompagnamento a ogni pellicola e quindi il pubblico sarà in qualche modo coinvolto, chi vuole seguirci volentieri. Ci lasci nuovamente tutti i riferimenti web? www.opendb.it alla pagina del Green Movie, è una piattaforma di distribuzione dal basso, quindi democratica o open source di film e quindi sarà facilissimo trovarci, c'è proprio la pagina Green Movie, il link lo trovate anche sui nostri social greenmoviefestival.it, sul web sempre greenmoviefestival.it, dove appunto rinviamo alla pagina di streaming. Settima edizione Green Movie Film Fest, 18-20 dicembre 2020, un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Marino Midena. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima! Grazie a voi, grazie a voi, grazie. Con Laura Traversi, organizzatrice della prima edizione del Terra Viva Film Festival, Prove per un pianeta a colori, sul web dal 15 al 20 dicembre 2020. Laura, ben trovata. Ciao, buongiorno, ben trovati. Ci racconti di questo progetto? È un progetto che Associazione Amici di Giana, che è l'associazione di promozione sociale che presiedo, e Genoma Film, casa di produzione bolognese, hanno pensato di sviluppare proprio in questo anno terribile, terribile in tutti i sensi, nel senso che sia per il cinema che per la cultura in genere è un anno di meditazione e di grandi intralci. Noi abbiamo voluto procedere invece con la prima edizione di questo festival, che era tanto nelle nostre corde sia di associazione che di produzione, proprio per unire le cose che ci piacciono, il cinema e i grandi argomenti che saranno il futuro della Terra, l'ambiente e la condivisione e l'integrazione. Amici di Giana è l'associazione che presiedo e che per motivazioni di propria natura promuove e supporta un premio unico in Italia, che è il premio per i registi migranti e di origine migrante. È l'unico premio al sostegno, quindi alla produzione di prodotti filmici, di film, cortometraggi di ogni genere o lungometraggi, che vengono realizzati dai registi che in origine possono anche non avere la cittadinanza italiana. Invece Genoma è una nuova società di produzione che si è lanciata nel mondo della produzione del cinema indipendente. Quanti saranno i lavori presentati? Sono 17 in concorso, più qualche film anche fuori concorso. Da tutto il mondo? Sì, è un festival internazionale. Quali sono le tematiche più battute? Come dice proprio il nostro titolo e il nostro sottotitolo, prove per un pianeta a colori, cinema, ambiente e condivisione. Quindi, ambiente, l'indagine di tanti registi sui grandi scandali ambientali della Terra, i movimenti giovanili per il supporto appunto dell'ambiente e anche il tema della migrazione e dell'inclusione. Come sarà organizzato online il festival? Si può vedere sulla piattaforma My Movies, quindi accedendo alla piattaforma My Movies e andando sul menu Festival Online, oppure dal sito terravivafilmfestival.it, dove si potranno vedere tutti i film. Il festival è organizzato con delle proiezioni giornaliere che iniziano alle 10 di mattina, ogni film è visibile per 72 ore, registrandosi e prenotandosi nella piattaforma. Ci saranno anche forme di interazione con chi assiste alle proiezioni, con il pubblico? La forma di interazione che abbiamo scelto per questa prima edizione, perché naturalmente nel suo progetto originale erano stati previsti dei convegni, dei dibattiti con i registi in presenza, abbiamo voluto però fermamente questo momento di condivisione e sono le dirette che saranno anch'esse visibili sulle piattaforme e sono dei momenti in cui gli ospiti, registi, persone di cultura della nostra realtà interagiscono con gli studenti del territorio emiliano. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? terravivafilmfestival.it e mymovies.it, Cinema News per la news di oggi, oppure Cinema On Demand e Festival Online. Terraviva Film Festival, prove per un pianeta a colori, prima edizione sul web dal 15 al 20 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento all'organizzatrice Laura Traversi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti, ciao. Con Andrea Segre, regista del film Molecole, presentato a Venezia 77, ora disponibile in streaming su Zalab dal 15 dicembre 2020. Andrea, ben trovato. Ciao a tutti. Come lo presenteresti questo film? Beh, è un film che non sapevo sarebbe esistito, come dire, un film che è uscito in maniera non inaspettata completamente, perché io stavo a Venezia a fine febbraio per fare delle riprese per una produzione teatrale, diciamo sperimentale, tra teatro e cinema. Stavo facendo delle riprese appunto legate a quel progetto e lentamente la città ha iniziato a svuotarsi e poi si è congelata perché è arrivato il lockdown di marzo, con Venezia che ovviamente si è svuotata prima e più di altre città, perché il centro storico di Venezia è per un buon 70-75% in realtà abitato da non residenti, frequentato da non residenti, per cui tutti i turisti, i lavoratori del turismo sono scappati prima, per cui si è iniziato a svuotare la città davanti ai miei occhi e io ho iniziato a filmare quello che mi succedeva, ma senza ben capire che cosa sarebbe stato, cosa stavo vivendo, facendo quello che tutti noi abbiamo fatto quest'anno essenzialmente, cioè provando a vivere una cosa che non ci è mai capitato di vivere e che stiamo provando a capire che cos'è, che cosa rappresenta, che cosa ci dice della vita. E questa esperienza in presa diretta dentro a una città che chiaramente racconta in maniera ancora più forte, no? Questo vuoto, perché è una città appunto, come tutti sapete, sull'acqua, senza macchine, che quando si svuota sembra anche viaggiare indietro nella storia, no? E poi ha questo rapporto di specchio con l'acqua che ha una forza estetica ma anche esistenziale molto forte. Mentre tutto questo viaggio è diventato un viaggio anche interiore, è diventato anche un viaggio nel rapporto con mio padre, che era cresciuto a Venezia, che aveva filmato Venezia, pur lui non essendo per nulla un artista, un regista, cioè era uno scienziato, un chimico fisico, si occupava proprio di molecole, appunto di movimento delle molecole. Lui ha filmato un po' Venezia con una Super 8 per divertimento negli anni 50-60 e così è diventato un po' un rapporto con lui, con la sua assenza, perché è mancato 10 anni fa, è un po' un rapporto con la fragilità dell'esistenza, una riflessione su come siamo fragili e su quanto è fragile la materia, che è uno dei pensieri che credo sia venuto, stia venendo a molti in questo anno, in cui appunto delle molecole invisibili stanno modificando radicalmente le nostre vite. Che rimbalzo c'è stato tra le immagini che hai catturato e il tuo percorso interiore? La verità è che mentre raccoglievo quelle immagini si è compiuto questo percorso, cioè vivevo questo percorso, però diciamo che forse la cosa giusta che ho fatto in tutto ciò è che non mi sono mai chiesto che cosa mi stava succedendo, ma ho continuato a vivere e filmare dicendomi quello che raccoglierò con la camera in qualche modo mi racconterà qualcosa. Era talmente assoluto quello che stavo vivendo, che stavamo vivendo, che non ho voluto inserirlo dentro un progetto, no? Cioè non ho deciso adesso filmo questo per raccontare questo, no? Ho passato delle giornate nel lockdown veneziano ad andare in giro con la camera, perché la camera era meglio del cane, perché se avevi la camera in mano stavi lavorando con la comunicazione, perché potevi andare in giro, e ho raccolto degli appunti che poi, tornato a casa riguardandoli, mi hanno raccontato delle cose che hanno iniziato a dialogare con l'altra parte del film e di questa esperienza, che è il rapporto con qualcosa di più interiore, di più intimo. E poi è stato un lavoro ovviamente di montaggio molto lungo, complesso, cioè lungo no, perché in realtà è stato intenso e abbastanza rapido, un mese e mezzo, però molto intenso, appunto molto denso, perché ogni giorno lavoravamo tante ore dentro a questo materiale e dentro anche al materiale, diciamo appunto, più delicato di rapporto con me stesso, con mio padre, che ha lavorato con complessità, insomma, in dialogo con le immagini. E ne è nato un film in cui per la prima volta uso tanto la mia voce, in cui per la prima volta c'è tanta musica, cioè è un film che chiaramente ha delle differenze evidenti con gli altri miei film, insomma, perché è stato tutto molto diverso, vissuto, insomma, chiaramente. Disponibile in streaming su Zalab da martedì 15 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Segre. Un abbraccio, in bocca al lupo, alla prossima Andrea. Ciao Fede, grazie, a presto. Ciao ciao. Con Barbara Martuscello per presentare il suo documentario Un oscuro luogo del desiderio, i fotografi guardano Roma, online dal 15 dicembre 2020. Ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ti racconti di questo lavoro? La cosa è nata da un'idea di Stefano Cioffi e me, prodotto dall'Accademia Italiana del Flauto per questo festival che si chiama Flautissimo 2020, e che da un po' di anni, diciamo, ha aperto anche ad altre realtà creative, quindi non solo alla musica, perché Flautissimo chiaramente ci richiama la musica. E abbiamo pensato di produrre inizialmente una mostra che guardasse questi luoghi del desiderio, e nello specifico Roma, perché appunto in questo momento il festival si muove a Roma e si produce a Roma. Purtroppo con le limitazioni degli spazi pubblici, purtroppo chiusi, ma io li aggiungerei anche incomprensibilmente, perché comunque sai, i musei sono presidi, diciamo, no? Anche contro la depressione, contro l'ignoranza, e quindi sarebbe stato bello poterli tenere aperti, ma insomma adesso qui non facciamo polemiche, e abbiamo dovuto cambiare, e non più una mostra, ci avevano chiesto allora di convertirla in una mostra digitale. Io non credo molto in queste formule, come dire, arrangiate, ho preferito quindi farne un video lungo di 7 autori con 7 interviste, e 7 autori che ci hanno ricevuto nei loro spazi di lavoro, quindi vediamo i loro studi, le loro case, è una cosa insomma anche intrigante, io credo, per chi non è del settore, che ci raccontano la loro ricerca, ma naturalmente poi il loro lavoro su Roma. Quindi sono 7 visioni completamente differenti. Nel documentario, diciamo, c'è una carrellata di questi 7 autori, e c'è chiaramente poi un'introduzione di Stefano Cioffi e mia, che racconta del perché poi è nata questo progetto. Credo sia una cosa interessante perché per la prima volta abbiamo da una parte Roma che viene raccontata direttamente dai fotografi, quindi c'è la loro voce, ci sono le loro foto e loro raccontano anche un po' a braccio, quindi è un video molto ragionato, molto pensato, però allo stesso tempo lascia tanta libertà poi agli autori di raccontarsi e raccontare. La scelta di questi fotografi è stata mia da curatore, perché conoscevo già il loro lavoro e perché era un lavoro molto caratterizzato su Roma. Naturalmente ce ne sarebbero stati molti altri che non vivono a Roma, ma hanno fatto dei lavori, uno tra tanti, Basilico, insomma ce ne sono tantissimi di autori importantissimi che hanno fatto questi lavori. Però abbiamo voluto intanto coinvolgere autori che lavorano ancora e che ci sono, insomma, sul territorio, ma che vivono anche qua, magari per un lungo periodo, insomma, non è detto, poi sai, i fotografi si muovono, cambiano, come spesso facciamo tutti noi del settore, ci muoviamo molto, a volte andiamo ad abitare in altri luoghi, insomma, dove ci porta il lavoro, dove ci porta la creatività, però nello specifico loro vivono tutti a Roma, quindi vivono la città, hanno vissuto la città per tanto tempo e hanno prodotto dei lavori specificamente, fortemente radicati sul territorio. Ecco, questa era la scelta che abbiamo fatto. Purtroppo solo 7, ma insomma la nostra idea è quella di iniziare e poi continuare a produrne altri, insomma, quindi è un work in progress tutto sommato, ecco. Che sguardo raccontano? È veramente molto articolato, molto sfaccettato, perché ognuno di loro ha una sua, come posso dire, caratterizzazione. Covino è un autore interessantissimo che ha fatto un lavoro, diciamo, su Roma in più, diciamo, declinazioni, raccontando delle storie che partono da fatti realmente accaduti, i luoghi della Banda della Magliana, oppure il rapimento molto, come dire, misterioso di Davide Cervia, quindi il caso C, veramente complesso e complicato, però lui praticamente ha ricostruito queste storie attraverso però i luoghi che sono essenzialmente luoghi a Roma e provincia, naturalmente. Fabio De Benedetti è un artista, quindi lui ha scelto tra i vari lavori su Roma, quello che a noi è interessato molto di più è il lavoro sui simboli di Roma, quindi dal San Pietrino al famoso nasone delle fontanelle o al quartino che si usava ancora, insomma si usa nelle fraschette dei castelli per esempio. Luciano del Castiglio è un fotoreporter, quindi ha raccontato una Roma, diciamo, dal punto di vista anche di suo, insomma, di fotoreporter. Imbriaco è un notissimo fotografo, sono tutti notissimi, insomma, naturalmente, insomma, lui forse è il senior, più senior degli altri, credo. Lui invece ha fatto sempre un lavoro, diciamo, legato all'architettura e ai luoghi dell'arte, quindi i grandi musei, le grandi costruzioni di architetti, e anche andando a raccontare la prima posa delle pietre, quindi è interessante vedere anche, che ti posso dire, la costruzione del Maxi, dall'inizio, quando appunto era un'altra cosa, fino alla costruzione ultima. Scusami, Andrea Iemolo, naturalmente. E Imbriaco invece è un po' più giovane e il meno senior del gruppo. Invece Imbriaco ha fatto un lavoro particolare, perché anche lui ha ricostruito una personale visione di Roma attraverso i luoghi temporaneamente, diciamo, occupati da realtà migranti o da spesso anche homeless, che hanno ricostruito un loro luogo d'abitazione in aree che però chiaramente non erano nate per questo. Quindi c'è da una parte uno sguardo sociale, se vuoi politico, molto forte, e dall'altro anche però la resa di un'intimità anche di tenerezza e di bellezza. Quindi Imbriaco è riuscito a fare entrambe le cose, no? Restituire la durezza e nello stesso tempo una sorta di poesia, chiamiamola così, di quotidianità. Anton Giulio Nofri ha fatto, tra i tanti lavori, quello che, diciamo, me aveva colpito molto di più, un lavoro che lui ha fatto tramite la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che ora si chiama la Galleria Nazionale, una volta si chiamava GNAM, no? Un acronimo, e ha restituito una Roma che non ti aspetti, perché è la Roma, diciamo, del lockdown, quindi le classiche piazze di Roma, quelle, diciamo così, da cartolina, tra virgolette, completamente in assenza di persone, e quindi è una Roma metafisica, quasi fatata, con una sua drammaticità, perché si percepisce nella situazione, però non lo stesso tempo con una sua surreale bellezza. E poi c'è Flavia Rossi, finalmente, insomma, una donna che lavora restituendo una Roma, anche in questo caso architettonica. Lei è anche un'artista, molti di questi autori sono fotografi o artisti che lavorano con la fotografia. Flavia ha entrambe le cose, e tra i lavori più interessanti che lei ha fatto sono, secondo me, proprio questa serie che scandaglia Roma nella sua struttura e architettura, cercando un equilibrio, una sua bellezza ideale, che spesso l'architettura ha, anche se uno non può non notarla, insomma, dai palazzi del potere a invece i palazzi magari delle periferie. Ecco, questo è un po' il gioco che abbiamo cercato di restituire attraverso visioni completamente differenti, anche di generazioni, perché ognuno di loro ha una storia professionale e una derivazione, diciamo così, geografica, ma anche di età molto differente, quindi è una scelta un po' articolata, ecco. Un oscuro luogo del desiderio, i fotografi guardano Roma online dal 15 dicembre 2020 sulla pagina Facebook di Flautissimo Festival. Un saluto e un ringraziamento alla regista Barbara Martuscello. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un saluto a tutti voi.